veloce, leggero, non è faticoso, il che è una condizione, un requisito anzi interessante per i lettori, soprattutto i lettori di oggi. Ma questo non significa che Arianna non si soffermi nelle descrizioni e soprattutto in quello che è la caratteristica fondamentale di questo racconto, di questo romanzo, che è quello di un viaggio introspettivo al femminile in un calato in un mondo, quello attuale, dove ci sono tante difficoltà, forse c'è anche una diseducazione, ne parlavamo prima di iniziare questa serata, una diseducazione all'affettività, una serie di paure che forse sono ancestrali, soprattutto per la donna, ma che oggi, nonostante ci sia molta più libertà, molta più disinvoltura, si ripropongono con una forza maggiore e anche in tutta la loro drammaticità. Per non parlare in termini così troppo metaforici, ed entrando un po' nel particolare di questo romanzo, si parlava prima di quella che è l'educazione sentimentale. Oggi gli adolescenti, e forse questo è un libro, me lo suggeriva prima anche la stessa autrice, potrebbe essere interessante, a maggior ragione anche per un pubblico giovane che si apre alla vita e quindi ha tante esperienze, compresa appunto quella della conoscenza di se stessi e in rapporto e in relazione con gli altri. Non è facile, questo libro sarebbe forse indicato, perché a volte proprio anche attraverso una lettura si possono scoprire delle situazioni comuni a quelle che si vivono e sdrammatizzare oppure trovare delle soluzioni, no? Ecco, il libro è sempre stato un rifugio ma anche una buona fonte di informazioni anche per la vita, per il comportamento. Si parlava prima di alcuni romanzi di formazione, l'educazione sentimentale di Flaubert, citavo, oppure anche semplicemente La dama delle camelie di Dumas. Sono libri che parlano di un argomento che non è proprio esattamente lo stesso di questo libro, ma che fanno emergere delle difficoltà sempre del ruolo femminile calato in una società ottocentesca, ma che diciamo oggi, con tutti i progressi e le vittorie che sono state così conquistate, riguardano ancora il mondo femminile. La donna in particolare nella propria intimità può essere maggiormente violata e a maggior ragione oggi, soprattutto gli adolescenti, quando vanno alla scoperta della vita, dovrebbero avere degli strumenti in più per tutelarsi, per difendersi, perché lo vediamo anche dalla cronaca stessa, e lascio perdere i femminicidi, perché i femminicidi hanno sempre una matrice purtroppo, ahimè, familiare, ma parlo di una violenza diversa, che è quella che riguarda l'intimità di una persona e la, diciamo così, pubblicità non autorizzata di quelle che possono essere i propri momenti più preziosi anche che una persona vive, e che spesso gli adolescenti si trovano poi riproposti attraverso questi social network che mettono a repentaglio molto spesso anche la vita stessa delle vittime, di chi subisce questo tipo di sopraffazione. Arianna Vetter non ha scritto un giallo, l'ho visto subito, però tocca questo tema, tocca un tema fondamentale che è il tema dell'amore, delle paure e anche il collegamento di tutto questo percorso con quella che è la realtà attuale, con la comunicazione, con la conoscenza anche di persone attraverso social media o comunque in maniera molto virtuale. Rischi e pericoli che si possono incontrare affacciandosi a questo mondo ed esponendosi in queste reti. Ma prima di andare oltre, insomma, con questo tema, vorrei appunto rivolgere intanto la prima domanda diritto ad Arianna Vetter, chiedendole come è arrivata ad affrontare, ad inventarsi, a crearsi questa storia e a scriverla, perché è un processo, penso, molto complicato, ma ci interessa proprio per conoscere e capire come mai sei arrivata a questo tempo. Certo, buonasera a tutti intanto. Dunque, io ci sono arrivata negli anni, in quanto, come tutti possono immaginare, ogni scrittore comunque parla anche di sé, fondamentalmente, quando scrive. Però parla anche delle esperienze che ha vissuto attraverso altre persone, altri incontri, attraverso libri che può aver letto o emozioni che può aver provato. Per cui mi sono resa conto, pur essendo una persona giovane e essendo vissuta soprattutto dagli anni 2000 in poi, un periodo storico dove corre tutto molto veloce, dove la comunicazione è veloce, gli incontri sono veloci grazie appunto a questa realtà virtuale. Ci sono delle cose però antiche che vengono comunque a galla, che rimangono ancora sospese, nonostante viviamo in questo periodo. E nello specifico io ho parlato di questo tema, come ha spiegato molto bene Valeria, della vita di una donna, del suo approccio a conoscere meglio se stessa, il proprio corpo, la propria sessualità, che viene dato per scontato in questa società, viene anche mercificato, viene trattato come se fosse una cosa banale alla fine. Mentre riveste un'importanza fondamentale, soprattutto per chi la vive in primo piano, che è la donna stessa, ma anche per gli uomini, perché comunque un uomo, quello che mi è stato anche detto come grande piacere da uomini che leggendo questo libro hanno capito meglio come si può sentire una donna. Per cui, ecco, mettendo insieme delle cose che io stessa ho imparato e delle cose che invece ho incontrato sul mio cammino, ho deciso di scriverlo per raccontare questa esperienza che può essere utile, come ho detto, sicuramente a delle ragazze che devono affrontare queste cose dall'inizio, ma anche alle donne più adulte che possono ritrovare se stesse in queste storie, in queste difficoltà o nelle emozioni invece più belle che si provano quando si vive l'amore in modo sano e non in modo ossessivo, per cui è adatto a qualunque persona. Ho dato voce, insomma, a questo desiderio che avevo di raccontare una storia del genere. Che cosa secondo te può essere utile, che cosa, o meglio, che cosa manca oggi agli adolescenti, visto che li abbiamo tirati un po' così in ballo in questa nostra conversazione? E che cosa può essere loro di aiuto, insomma, per affrontare un cambiamento, perché questo è un rito anche di passaggio, se vogliamo, senza andare incontro appunto a delle forti così anche delusioni. Secondo me oggi manca il filtro tra quello che si è e quello che ci viene proposto dal mondo attuale, nel senso che non esiste più quella voglia di scoprire le cose lentamente, di scoprirle quando è il momento giusto, di scoprirle all'interno di un mondo fatto di sentimenti, in particolare di fiducia, di sicurezza. Adesso è tutto immediato. Quindi un adolescente, magari una ragazza di 13-14 anni, si affaccia al mondo della sessualità. E per compiacere le proprie amiche, la società, gli stimoli che riceve in modo ossessivo, purtroppo, non vive questa esperienza nel modo invece che sarebbe più bello per lei, la brucia, diciamo, questa esperienza. E questo non è che perché siamo nel 2016, allora va bene così, perché ormai si vive così, perché in qualunque epoca noi viviamo, siamo sempre esseri umani, quindi l'approccio dell'anima, del nostro cuore, in particolare da donna, rispetto a questo argomento non è che sia tanto cambiato. Per cui se un adolescente riscoprisse, si mettesse davanti a questo filtro, che non è una porta, cioè è comunque semplicemente un filtro trasparente che permette di guardare l'argomento con più chiarezza, no? Con un approccio diverso, con un approccio appunto più intimo, con un approccio più personale e con la voglia di scoprire, come dicevo, questa lentezza, no? Il piacere della scoperta, il piacere di fare un viaggio in qualche modo, no? Ecco, il piacere del viaggio i giovani oggi non ce l'hanno più, cioè devono avere tutto e subito anche in questo ambito qui in particolare. Diciamo che la realtà virtuale, questa eterna connessione che noi viviamo con internet, questi legami anche con le persone, hanno un carattere straordinario di conoscenza, però in realtà alla fine nei rapporti individuali ci costringono a una superficialità oppure alla creazione quasi di un avatar, no? Di noi stessi, di, una, così, di un personaggio con cui si può giocare ma che non corrisponde a quella che è la vera essenza. Abbiamo visto anche i casi di persone che si spacciano in maniera anche dolosa per così adescare delle ragazze o delle ragazze, e questa è la parte più noir, diciamo, di quello che succede nella vita reale. Poi ci sono anche degli adulti o delle persone che cadono in tentazione e appunto si costruiscono un personaggio, interagiscono in questo mondo virtuale, ma soprattutto diciamo che poi hanno incontro anche dei dispiaceri, ed è questo il caso della nostra protagonista, senza voler svelare troppo della trama, però se ci vuoi raccontare un po' come l'hai costruita. Hai detto che l'hai attinto, sicuramente ha un bagaglio personale o di relazioni che, di persone con cui sei entrata in contatto, ma come mai ti sei proprio cimentata in questo tema? Ecco, perché è un tema molto particolare e anche rischioso, difficile, sì. Insomma, coinvolgente. Io sono stata ispirata da due libri in particolare. Uno è Il Delta di Venere di Anaïs Nin, che è una scrittrice francese che molti anni fa ha parlato di questo argomento della sessualità in modo molto schietto, molto diretto, e tra l'altro l'ha affrontata su tutti i livelli, nel senso che ha scritto un libro dove ci sono delle descrizioni molto poetiche e dove ci sono delle descrizioni molto crude, che però secondo me è il modo migliore per raccontare le cose, cioè con la verità, no? Non si possono edulcorare, bisogna dichiararle per quello che sono. E poi mi ha ispirato anche molto 11 minuti di Paolo Coelho, che pur essendo un uomo ha descritto la sessualità di una donna in modo preciso, soprattutto dal punto di vista delle sue emozioni. Non so ancora come abbia fatto a farlo così bene, però devo dire che è stato straordinario. Io, ritornando all'argomento iniziale, cioè il fatto dell'approccio, no? Mi sono resa conto che in questi tempi le persone usano a volte, o anzi spesso, gli strumenti virtuali perché si vergognano di parlare di determinate cose con chi li conosce davvero, con gli amici, con i genitori, eccetera. Quindi entrano nel mondo virtuale perché si possono relazionare con persone che non li conoscono, quindi non vengono giudicati, non li vedono in faccia e si sentono liberi di dire quello che pensano, di confessare le cose anche più intime, più imbarazzanti, cosa che fa la protagonista all'inizio di questa storia, perché si sente disperata, fondamentalmente perché sta vivendo un problema suo, intimo, personale, e non ha il coraggio di dirlo a chi le vuole bene davvero. E paradossalmente il virtuale ci fa credere che noi, se parliamo con qualcuno che non ci vuole bene, in realtà ci capisca. Questo, come diceva Valeria, può portare a una serie di problemi seri, perché se incontri qualcuno che ha delle cattive intenzioni, puoi finire male. Non è quello che è successo alla protagonista, non voglio svelare poi il resto, ma ha corso un grosso rischio. Però la domanda è perché non siamo più in grado di comunicare con chi ci sta intorno e preferiamo farlo con chi non conosciamo davanti a uno schermo. C'è un tema, diciamo, che oggi, a prescindere poi dal problema specifico della protagonista del libro, si può applicare a un sacco di altri problemi. Cioè tantissime persone fanno questo perché non si sentono capite, non hanno il coraggio di parlare con chi hanno intorno. Per cui l'ho scritto proprio per dare voce a questo, per far capire che a volte la disperazione, la solitudine può far fare dei gesti impensabili, no? Che se uno ci pensa razionalmente non farebbe. E quindi forse bisognerebbe lavorare anche su questo nella propria vita, nelle proprie relazioni, nella propria crescita personale. Diciamo che sopravvivono dei tabù, no? A livello sociale, e poi appunto l'escamotaggio è quello di risolverli o di bypassarli con questi nuovi strumenti. E mentre ti ascoltavo, hai toccato un tema che è quello dei due autori che ti hanno ispirato per questa scelta. Una è una scrittrice, appunto, Anaïs Nin, e l'altra è Paolo Coelho. Ti chiedo se trovi una differenza, appunto, se ti è mai capitato di trovare una differenza proprio nella descrizione o nel raccontare l'amore o le difficoltà. Tu mi dicevi quello mi ha stupito, mi ha colto, mi ha meravigliato. Secondo te però ci sono dei canoni diversi tra attori maschili e femminili? Allora, in realtà no, mi sono resa conto di no, leggendo anche altri libri oltre a questi due. Il fattore determinante è la sensibilità dell'animo, cioè se una persona ha l'empatia, l'intelligenza emotiva, la sensibilità, riesce a fare sue delle cose anche che non può vivere, perché un uomo chiaramente non potrà mai capire cosa prova una donna a livello fisico, eppure queste persone, questi soggetti maschili sono stati capaci di descriverle così bene, perché probabilmente il sesso è una cosa che va al di là del terreno solo carnale, no? Diventa secondo me un terreno dell'anima, quindi l'anima non ha un sesso specifico, cioè l'anima può essere entrambe, in ognuno di noi può coesistere l'animo femminile e maschile, e questa è la cosa anche più bella probabilmente che abbiamo noi esseri umani. Spesso non lo ascoltiamo, magari ci soffermiamo solo sulla parte che ci interessa, però entrambe queste anime convivono, per cui per rispondere alla domanda credo che sia un autore maschile che un'autrice femminile sia in grado di avere anche la stessa sensibilità sull'argomento. C'è una parte che vorresti leggere, qualcosa per dare un assaggio così della tua allora, scrittura? Io leggerei la frase che ho riportato dietro nella copertina, che forse è un po' una delle frasi, cioè forse sicuramente è una delle frasi centrali, che dice questo. È la protagonista ha incontrato questa persona, ne è ossessionata in qualche modo perché lo ritiene in grado di salvarla dalla sua disperazione, chiamiamola così, e quindi nella sua mente ha permesso che questa persona entrasse in modo completo fino a annidarsi in ogni parte di lei, e questo pensiero diventa ossessivo, per cui riflette. Io prometto che il libro l'ho scritto sotto forma di diario, perché secondo me scriverlo in prima persona fa immedesimare ancora di più quello che prova la protagonista. Allora lei dice: desiderare tanto qualcuno non basta a farlo venire da te. Per me ora questo desiderio ha il valore più grande che si possa immaginare. Mi assorbe tutti i minuti del giorno e della notte, si annida in ogni cellula del mio corpo, in ogni parte della mia anima. Ma lui è libero. Beh, io sono altrettanto libera, in modo un po' diverso magari. Già, perché siamo tutti liberi di scegliere da chi vogliamo farci togliere la libertà. Ecco, infatti, questo era anche un po' un tema che volevo così toccare con te. L'amore cos'è? Cioè, è libertà? Oppure, come in questo caso abbiamo visto, è dipendenza? Perché questa è proprio un'addiction, quello che descrivi in questo libro. Diciamo, in che modo può essere una progressione della propria persona, una valorizzazione anche di se stessi, ecco. Come si può anche educare i ragazzi e le persone, perché poi ognuno di noi qui sa, avrà avuto le proprie esperienze, le proprie delusioni, ma anche la sensazione di migliorarsi, no? A fianco di una persona in libertà. Quali sono dei trucchi, diciamo, dei consigli che si possono dare anche agli adolescenti in questo senso? Allora, io in questo libro ho affrontato l'amore in tutte le sue sfaccettature, dall'iniziale dipendenza, ossessione, passione morbosa, all'amore vero fondamentalmente. Quindi già da questa mia risposta si capisce che l'amore vero non è la dipendenza, chiaramente non è questo che fa parte dell'amore. Spesso viene confuso così, sbagliando, e purtroppo le conseguenze più tragiche le troviamo nella cronaca quando si arriva all'estremo, però l'amore chiaramente non è dipendenza, per cui i trucchi per viverlo bene, per riconoscerlo, secondo me il trucco tra virgolette fondamentale è soltanto uno, cioè l'amore vero fa star bene, non è che ci sia molto altro da dire, nel senso che all'interno di questa frase c'è tutto, cioè il fatto che una persona ti rispetta, ti capisce, ti comprende, e questo universo, diciamo, non può che portare cose positive, per cui quando si vive una situazione del genere, allora bisogna interrogarsi, ma l'amore che sto vivendo mi fa star bene, mi fa avere fiducia in me stessa. C'è una frase bella che ho letto da qualche parte, che faccio sempre mia, che dice: chi ti ama veramente ti fa innamorare due volte, di lui e di te stesso. Cioè, una persona che ti ama veramente ti fa innamorare di te stesso, perché ti valorizza, ti accetta per come sei e ti fa star bene. Quindi questo è il segreto. Purtroppo più della metà, secondo me, delle volte, in percentuale, le persone pensano che l'amore sia quello fatto della gelosia, della dipendenza, dell'ossessività, che non è affatto così. Sono emozioni forti che possono creare dipendenza, ma non sono parte dell'amore vero. Adesso ti faccio altre due domande da un milione di dollari. Allora, tu hai affrontato il tema del coraggio, no? Perché poi uno degli argomenti che emerge forte in questo libro è che la protagonista è comunque una persona che affronta un percorso, magari sbagliando all'inizio o comunque scegliendo una strada più tortuosa rispetto ad altre, ma la fine è che proprio affronta e risolve con coraggio una serie di situazioni difficili, un percorso lungo, drammatico, ma che arriva a una soluzione. Quindi il tema del coraggio emerge. Il coraggio che cos'è però per una donna oggi? Allora, il coraggio per una donna è darsi valore per quello che si è e non preoccuparsi dell'opinione che hanno gli altri, soprattutto per una donna nello specifico, perché la donna tutt'oggi vive nella società sempre con una certa figura che deve rispettare in qualche modo, no? Cioè, fintamente siamo emancipate, ma la ragazza madre viene ancora vista in un certo modo, la ragazza che ha un sacco di relazioni viene vista in un certo modo, la ragazza che si sposa e poi decide che il matrimonio non va bene e divorzia viene vista in un certo modo. Tutte scelte che se invece fa un uomo non vengono pesate così tanto. Per cui la narrazione di questa storia è comunque ambientata in questi tempi. La protagonista vive in una famiglia, diciamo, piuttosto borghese, piuttosto tranquilla, con le sue convenzioni, ed è circondata da persone che vivono in questa società, perciò prende delle decisioni che vanno oltre quello che si aspetterebbero tutti da lei. Diciamo che dalla donna ci si aspetta sempre che si comporti bene, questo è il leitmotiv, no? La donna si comporta bene, la donna è comprensiva, si sacrifica in particolare. Questa cosa del sacrificio va rivista, perché una persona si sacrifica non sempre per gli altri, per compiacere gli altri, è una cosa in cui le donne cadono spessissimo. Gli uomini sono più egoisti, da questo punto di vista fanno bene, perché pensano a realizzare se stessi, non pensano sempre a compiacere quelli che hanno intorno, no? Per cui il coraggio della protagonista è a un certo punto dire: basta, adesso decido io cosa voglio fare della mia vita, faccio delle cose che non ho mai fatto prima, delle cose che probabilmente agli altri appariranno come delle pazzie, però devo ritrovare me stessa, devo capire chi sono e quindi devo avere il coraggio di farlo. Cioè, il coraggio si dimostra quando si prendono delle strade non mai praticate prima, quando ci si avventura in posti che non sono confortevoli. La seconda domanda che ti faccio è: se secondo te l'amore è a tempo determinato? Allora, se avete animali, sapete questa che... sera, scusate, ma non è per me il tema. Comunque, se avete animali, sapete che l'amore è per sempre. A parte gli animali, che sono puri, noi esseri umani siamo un po' più complicati. Secondo me, anche negli esseri umani l'amore può essere a tempo indeterminato. Diciamo che può cambiare la sua forma. Anche all'interno di una relazione uomo-donna non è detto che non si possa stare insieme tutta la vita, felicemente, se si ha la capacità di camminare e di far crescere questo amore, di capire l'evolversi. Cioè, non esiste chiaramente la coppia che vive come il principe e la principessa nel castello di Biancaneve, però bisogna avere il coraggio e metterci l'impegno. La parola impegno non viene spesso associata alla parola amore, perché sembra che l'amore viva di vita propria e quindi vada avanti da solo, invece no. Se ci si mette l'impegno e si ha la fortuna di essere compatibili su una serie di cose, può durare per sempre, altrimenti no. può non durare per sempre anche se ci si vuole molto bene, può prendere altre forme, può diventare un affetto, oppure può clamorosamente finire ed essere di breve durata e intensità, però insomma quello fa anche parte delle esperienze. Bisogna anche vivere gli amori brevi per capire gli amori lunghi, altrimenti non si capisce. Diciamo che l'unica cosa è che non si autoalimenta in eterno. Esatto, così no. Ci leggi qualcosa ancora all'interno del libro? Dai. Allora. Lo facciamo sempre, è una prova sì. Che facciamo sempre con tutti i nostri autori e le nostre autrici. Come pensi? A me piacerebbe anche poi che tu dessi un attimo un saggio della tua scrittura, no? Come una situazione la stai descrivendo in maniera che le persone poi che leggeranno il libro hanno un attimo prima un'idea del tuo stile, no? Arianna ha scelto, appunto lo diceva prima lei, una sequenza, insomma uno stile dialistico, quindi sono degli appunti, delle giornate che lei descrive con questo patema, queste situazioni anche che si accavallano con una certa intensità e una certa velocità. Beh, allora visto che parlavamo dell'inizio dell'incontro virtuale, direi che questo è una parte di quelle più giuste. I pertinenti. Allora, la protagonista, appunto scrive sempre in prima persona, dice: ero davanti al PC, ho provato a entrare in una chat, non so neanche perché, forse perché lì dentro è tutto virtuale e quando hai un problema reale, a volte, hai bisogno di esprimerti in un mondo dove nessuno ti guarda in faccia e nessuno può giudicarti soprattutto. Non l'ho mai frequentato quell'ambiente e so che un PC non può avere degli occhi, delle mani, un sorriso, un cuore, ma ha una tastiera e sulla tastiera puoi sfogarti, arrabbiarti, emozionarti, liberarti, come facevo da ragazzina con il mio diario fatto di foglie di carta. Poi, se qualcuno ti risponde, ti senti meno sola, anche se in fondo lo sei sempre. E una volta che hai chiuso tutto, i fogli o il PC, continui a fare la tua vita senza nessuna interferenza, magari ti senti soltanto un po' più leggera nell'animo e quello fa bene, o se mi fa bene in questo momento, e nessuno se ne accorge. Quindi diciamo che emerge la necessità di raccontare, ma non tanto quella di ascoltare, no? Quando ci si relaziona in questo mondo virtuale. Hai in mente di scrivere qualcos'altro? Hai dei progetti? Allora io in questo libro, primo libro ho trattato l'argomento in modo chiaramente più serio e più profondo. Io sono anche una persona molto ironica, per cui ho già scritto un altro racconto più breve che si intitola L'amore ai tempi di Facebook, dove narro in modo molto più ironico e divertente quello che succede quando due amiche decidono di provare a conoscere delle persone grazie a Facebook e quello che succede loro. E questa cosa però è molto divertente, no? Non ci sono risvolti drammatici. Mi piace sicuramente scrivere di quello che è l'animo umano, per cui avrei materiale per scrivere anche un'altra storia e probabilmente lo farò. Adesso, siccome il libro è uscito da poco, mi concentro un po' su mio primo bambino, chiamiamolo così, e poi vediamo un po' cosa succede, insomma. Ma questo di Facebook l'hai già scritto, no? L'ho già scritto, già pronto, sì. Però credo che probabilmente lo pubblicherò online perché ho creato una pagina Facebook per questo libro dove ho scritto una serie di articoli, dove scrivo degli articoli periodicamente parlando dell'amore, del sesso, delle relazioni, anche lì spesso in modo anche divertente per drammatizzare, per far riflettere. Probabilmente pubblicherò puntate su questa pagina, questo racconto. E poi il resto lo vedremo, insomma. Mi dicevi che ti piacerebbe andare anche nelle scuole? Sì, mi piacerebbe molto parlarne con le ragazze, con le studentesse di questo argomento, dove spero di avere anche questi incontri in futuro, poi di girare in altre città. Adesso la prossima presentazione la farò a Roma e il prossimo anno probabilmente a Brescia, a Milano, insomma, pian piano giriamo. Quindi, insomma, Arianna ha un programma di promozione. No, mi interessa, ecco, diciamo che ormai ci abbiamo un po' la conclusione della presentazione. Mi interessa appunto questo discorso della promozione presso le scuole o comunque presso un pubblico giovane, no? Perché effettivamente quello che emerge è che manca anche il pudore a volte, è un sentimento o comunque un'accortezza che non sempre i nostri ragazzi oggi hanno, no? Come si può insegnare? Perché da una parte noi proveniamo da un'educazione un po' più schematica, rigida, con dei valori anche morali molto forti, e abbiamo abdicato in questi anni, in nome di una libertà e di una velocità anche delle cose, a una, non dico laicità, ma quasi a un'astensione politicamente corretta da tutto quello che poteva essere il dare dei precetti o dare delle indicazioni o dare dei suggerimenti ai figli. Il suo qual è? Che non si stenta un po' ogni tanto a trovare il bambolo della matassa e soprattutto a parlare in termini anche sentimentali di quello che può essere l'approccio, le esperienze con l'altro sesso. Cosa dirai ai ragazzi quando andrai a scuola? Ma io volevo dire ai ragazzi di capire che non è che devono vivere la loro vita in base a quello che viene detto in televisione, sui giornali, dagli amici o da internet, che la sessualità non è un modo per dimostrare di essere grandi o di essere esperti, non è una merce di scambio per avere una ricarica telefonica o per avere il gradimento a scuola da parte dei compagni. Vorrei far capire loro che è un mondo magico, veramente magico, che va vissuto bene per provare questa magia, altrimenti non la si vive, non si gode appieno di questa possibilità. E poi che va di moda a dire chiaramente che il sesso è separato dall'amore, che è una cosa istintiva, che non ha implicazioni, ma in realtà anche il ragazzo, la ragazza più moderna, più scafata, più spudorata, un'anima ce l'ha. Sono convinta che qualsiasi persona voglia essere amata, prima di tutto voglia essere capita. Per cui è una maschera che si mettono i giovani prima di essere un po' bulli, di essere un po' così provocatori, di essere un po' scrontati. In realtà un'anima ce l'hanno loro, bisognerebbe che la tirassero fuori, e mi piacerebbe che leggessero questo libro, come dicevo prima a te. Uno dei complimenti più belli che mi sono stati fatti è stato quello di una mamma che mi ha detto: quando mia figlia adesso ha 8 anni, quando avrà 14-15 anni, le farò leggere il tuo libro. Ecco, vorrei che con questo libro tirassero fuori un po' l'anima e vivessero una cosa bella, ma non c'entra con il discorso della moralità. Poi noi siamo in un paese cattolico, magari il bigottismo non c'entra, non è quello il discorso, è proprio un discorso di avere rispetto di se stessi e di un sentimento, di un'emozione bella come questa dell'amore e del sesso, insomma. Va bene. Allora, volevo chiedere anche al pubblico se ha qualche domanda, qualche curiosità da chiedere alla nostra ospite. Sì, io dicevo, vorrei parlare dal punto di vista del maschio. E volevo dire che nell'amore ci sono due tipi: quello vero, come diceva lei, e quello no. Allora per un maschio le cose sono in un certo senso molto semplici, in un certo senso, cioè ad ogni maschio piace una bella donna, quello c'è poco, quello è chiaro, quello scientifico, diciamo, è una cosa scientifica, cioè per gli uomini quando si presenta con una bella donna, per un uomo va tutto bene, basta che sia una bella donna, questo per tutti i maschi secondo le mie esperienze. Poi c'è però l'amore vero, effettivamente c'è, ed ha un'altra connotazione. Questo che ho detto del maschio è una cosa più oggettiva, più pratica, mentre invece quell'altro ha una connotazione spirituale, veramente. Ed è per questo che è meno individuale, perché è strano, ed è molto strano, perché ci si fa spesso delle immagini della persona di cui ci si è innamorati, no? Ci fa un immaginario e si la pone su digital writer, e poi però in pratica non è che sia così, però appunto il difficile del lavoro vero è individuare cosa c'è anche dietro di questo, perché le cose spirituali e così sono appunto, dicevo, non molto identificabili, non molto comprensibili sempre, per cui insomma, mi è capitato a me appunto di innamorarmi spesso di qualche donna che il quale amore non ha una vera spiegazione, perché non era neanche tanto bella con quell'altro, no? Magari questa donna non era niente, però c'è sempre qualcosa di speciale, che lì, in quel punto lì, la bellezza non conta più, anche se per loro, come ho detto, guarda sempre alla bellezza della donna, in questo caso non conta più, effettivamente si distacca completamente. Poi magari nella pratica è un po' diverso, però per riferirmi a una cosa che è capitata a me, io mi sono innamorato 40-50 anni fa di una donna, no? Eravamo giovani, e niente di speciale, una ragazza di aspetto normale, nessun niente di speciale. E questo innamoramento è sempre rimasto, anche se lei, e io recentemente l'ho vista, l'ho incontrata, gli ho dato appuntamento al caffè per vedersi, no? E questa, come al suo solito, come 40 anni fa, continua a sdomare. Purtroppo la ricetta non ce l'abbiamo, perché siamo tutti. A me è sempre piaciuta, piace ancora oggi, ci ho riprovato. Non bisogna mai demordere. Ma la domanda è qual è? Come fare a conquistare? Questo è lo strano dell'amore vero, no? Quindi, malgrado quella donna continua a sdomarmi, io continuo a continuare a piacere. Ma questo non è l'amore, questo è un classico maschile di quando lo sentire una cosa e rimane lì sospesa. Gli amori più belli sono quelli mai vissuti, ovviamente, perché sono perfetti. Magari se lei avesse passato 40 anni con questa, io non la sopportava più. Appunto, quello che dicevo è l'immaginario. È l'immaginario, abbiamo... con lei, allora non sarebbe più così. Invece, essendo sempre rimasti... Sono tanto conoscenti, neanche amici, ci conosciamo da tanto tempo. E allora è rimasta così, questa immagine è rimasta però. È rimasta. È il potere della sospensione, esatto. No? Perché anche il mondo virtuale ci sospende, no? Quando uno si scrive con un'altra persona, in realtà non la conosce, si sfoga, ma non la conosce, rimane sempre quell'irrisolto. Che forse sono l'etica. Perfino il Papa ha deciso, è meglio fare, c'è la scritta sul giornale, un matrimonio è meglio convivere un po' e dopo sposarsi, piuttosto che sposarsi subito e poi dopo due anni va male. Ormai è stato sdoganato quasi tutto. È meglio convivere un po', dice, fino a che vediamo che va bene. È stato sdoganato quasi tutto, anche diciamo il genere, quindi non ci sono più unioni, no, miste, ma appunto ormai abbiamo la possibilità di fare quasi tutto, e l'unica cosa che rimane eterna è sempre questa ricerca dell'amore, no? Perché alla fine è il tema più gettonato, più che incuriosisce, insieme a quello della morte, insomma, cioè ci sono due cose, Eros e Thanatos, che vanno a braccetto e che sono forse le due uniche grandi domande che ci accompagnano per tutta la vita. Come amare, lo troveremo questo amore, cosa sarà di noi dopo, eccetera, eccetera. Insomma, no? Sono temi che ci piace affrontare periodicamente, forse ognuno di noi si interroga così, poi è bello come questa serata ascoltare qualcuno che ti dice una cosa su questo argomento e te lo propone in una certa maniera, con la propria esperienza, perché è sempre un grande atto di generosità anche scrivere un racconto e metterci dentro del proprio, no? Perché alla fine anche Arianna svela i suoi pensieri, le sue sensazioni anche attraverso questo personaggio. però è un tema che poi ci accomuna sempre, no? Questo che mi fa piacere, perché alla fine siamo delle creature che si fanno sempre le stesse domande, indipendentemente dall'età o dal mondo in cui si vive e ci si muove. Quindi anche grazie a lei della sua testimonianza e della sua confidenza. Se c'è qualcun altro che vuole fare una domanda, se no diamo appuntamento. Intanto ti ringrazio della piacevole serata e io direi di dare appuntamento ad Arianna al prossimo libro, che lo faccia in internet, lo trasformi in un ebook, o decida o venga contattata anzi da una casa editrice per pubblicarlo. Noi siamo molto contenti se tornerai in biblioteca o comunque ecco, noi abbiamo adesso la possibilità di usare queste meravigliose sale in attesa che venga fatto un po' il bibliotecario, no? Quindi siamo un po' dei nomadi, no? Lo dico ogni tanto all'apertura della serata, però sicuramente insomma se ci saranno altre volentieri. Intanto dico che questo libro, per chi lo desidera o vuole leggerlo, lo trovate alla libreria Ubic in via Grappoli, e al momento lo vendono loro, si trova anche in internet, si può ordinare tranquillamente, basta cercarlo su Google, poi vengono fuori i siti, anche quello della casa editrice, ma qui alla libreria c'è. Vi ringrazio della partecipazione e al prossimo libro. Ecco, bene, allora ci rivedremo presto.